selezioni hanno mandato un messaggio molto molto chiaro rispetto alla nostra regione. Adesso chiaramente aspettiamo il complessivo dei risultati, ma tutti i dati che ci arrivano da tutta l'Emilia Romagna sono molto molto positivi. Ci sono tre elementi molto forti di questa terra, valori, lo avevamo detto fin dall'inizio, questa è una terra che ha valori fortissimi e che si sono visti anche in questa tornata elettorale. Noi penso siamo stati capaci di interpretarli, dall'alto un orgoglio molto forte che questa terra sente per, diciamo, ciò che è stata capace di costruire anche in questi 5 anni difficilissimi, e il terzo elemento anche una fiducia rispetto a una politica che è stata quella che ha ispirato la nostra campagna elettorale, onesta nel identificare i problemi, onesta nel proporre soluzioni, mai arrogante. È chiaro che c'è un dato di partecipazione alle urne che è un dato che preoccupa, lo avevamo detto in tutta questa campagna elettorale, sarà elemento ovviamente di riflessione, lo deve essere anche per noi in maniera indiscutibile. Io devo molta molta riconoscenza, perché a partire ovviamente dal mio partito, il Partito Democratico, c'è qui Eli Schlein e Stefano Bonaccini, che, diciamo, mi hanno dato fin da subito un grandissimo sostegno, ed è stato da parte mia un onore immenso poterlo rappresentare in questa sfida, e a tutte le forze della coalizione che sono state con noi. Noi abbiamo voluto parlare di Emilia Romagna, abbiamo voluto parlare della nostra terra, abbiamo voluto, diciamo, parlare ai cittadini e alle cittadine emiliano-romagnoli di che cosa volevamo fare per loro, e tutte le forze politiche nazionali del centro-sinistra ci hanno sostenuto, a oltre 60 movimenti civici che hanno deciso di aderire a questo progetto, che è stato un ulteriore elemento di orgoglio. Ora ci sono tante cose da fare, siamo pronti a farle, ci metteremo immediatamente al lavoro. Ce n'è una che avevo detto e che è assolutamente importante e che rivolgo direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Noi in questa terra siamo stati profondamente feriti nell'ultimo anno e mezzo. Io vengo da una provincia, la provincia di Ravenna, che è stata la più colpita, la più devastata dagli eventi alluvionali. Nel corso di quest'anno e mezzo tanti altri territori sono stati colpiti, parliamo da Bologna che è stata altrettanto ferita in questo anno. È stato un anno e mezzo di speculazioni politiche, di scontri costantemente, diciamo, è un dato drammatico quello della nostra terra, le persone hanno paura, le imprese si chiedono cosa devono fare per il loro futuro. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica e deve iniziare una nuova collaborazione istituzionale per la nostra terra, per l'Emilia Romagna, per le famiglie che sono state colpite. Io spero già nei prossimi giorni di poter incontrare la Presidente del Consiglio e su questo poter segnare un cambio di passo. Serve che tutti siano disponibili a un grande cambio di passo, lo dico io compreso, non io escluso, e quindi sono convinto questa sarà la prima cosa che si deve fare, perché ripeto, è un tema che ne va del futuro e della vita di migliaia e migliaia e migliaia di persone che non dormono la notte a qualsiasi allertamento, e quindi su questo metterò tutto il mio impegno, tutta la mia determinazione e anche, diciamo, questo atto di fiducia che gli emiliano romagnoli non hanno fatto solo in me, ma hanno fatto in una squadra molto molto grande, molto plurale, ma anche molto molto coesa. Grazie.